Luna marinara, l'amore dolce se non si impara, se si dice mo'. Se la bocca ignara con l'altra bocca che la più cara, baci non si dà. Raccontalo al mondo che cos'è l'amore, fa che fremente ogni cuore si stringa d'un cuore. Luna marinara, l'amore dolce se non si impara, se si dice mai che notte d'incanto sopra i giardini fiore piove argento, azzurro il mare di cobalto il manto del firmamento. Luna marina, l'amore dolce se non si impara, se si dice mo. Se la bocca ignara con l'altra bocca che è la più cara, baci non si dà. Contala al mondo che cos'è l'amore, fa che fremente ogni cuore si stringa d'un cuore. Luna marinara, l'amore dolce se non si impara, se si dice mai.